Siamo in collegamento con Enrico Quaglia, ideatore di Libri da Sport. Buongiorno Enrico, benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a lei. Le volevo chiedere subito come nasce il progetto di Libri da Sport. Allora, il progetto di Libri da Sport nasce durante il primo lockdown, quindi marzo-aprile dello scorso anno, da un'idea, diciamo, mia insieme ai miei colleghi. L'idea era quella di, in qualche modo, poter aiutare le librerie che in quel momento erano chiuse, completamente chiuse, a trovare una soluzione per comunque continuare la vendita dei libri. Diciamo che parlando con alcuni librai amici, alcuni editori, è venuta fuori questa idea di dire: ma perché non li spediamo a casa? Quindi l'idea era appunto trovare una modalità che permettesse alle librerie di spedire a casa i volumi. Quindi, diciamo, coinvolgendo alcuni editori è stata fatta una raccolta fondi importante. All'inizio vedeva una trentina di editori coinvolti, al termine dell'operazione erano quasi 190 editori che hanno devoluto in maniera del tutto liberale appunto una cifra decisa da loro che ha permesso di spedire i libri a casa dei lettori, quindi ha permesso alle librerie che hanno fatto richiesta a noi di spedire a casa i libri ai propri lettori. Questa è stata l'iniziativa che ha visto anche una rapidissima crescita delle librerie, perché diciamo nel periodo del lockdown abbiamo avuto 750 librerie circa che hanno aderito al servizio di Libri da Sport, e in quei mesi, grazie ai fondi degli editori, abbiamo realizzato poco più di 14.000 spedizioni. Quindi è stato un grandissimo lavoro, anche di grande impatto sia per il mercato e sia per le librerie. A proposito di librerie, sul territorio bolognese vi volevo chiedere: ci sono delle realtà che collaborano con voi? Allora, in questo momento, anche perché poi Libri da Sport ha avuto uno sviluppo, diciamo, dopo il primo lockdown, quindi è diventato un servizio stabile proprio su richiesta delle librerie, che da quell'esperienza ne hanno tratto una nuova modalità di vendita. Sì, abbiamo delle librerie, lavoriamo con alcune librerie indipendenti del territorio, l'Esoterica, abbiamo lavorato con Ulisse in passato, e in questo momento lavoriamo anche con la catena Coop, perché la stessa catena ci aveva chiesto, aveva visto il progetto, gli era piaciuto talmente tanto che in questo momento utilizzano noi per la spedizione a casa dei propri libri. Quindi sì, abbiamo alcune librerie indipendenti e, diciamo, la catena Coop che copre tutto il territorio bolognese. Sul vostro sito appunto di Libri da Sport non c'è solo la vendita vera e propria di libri, ma anche organizzazioni di eventi, podcast e consigli di lettura. Di che cosa si parla? Sì, allora, anche questa è un'iniziativa che è nata in corso d'opera, perché abbiamo realizzato con alcuni editori, proprio su richiesta loro, di fare degli eventi con le librerie aderenti al circuito. Che significa? Significa che noi di fatto organizziamo la regia dell'evento, colloquiamo con gli uffici stampa delle varie case editrici e alla presenza di una barra due librerie per evento presentiamo l'autore. Abbiamo fatto moltissimi eventi, tra novembre e dicembre abbiamo fatto quasi 50 eventi e ne abbiamo in programma in questi primi due mesi oltre 35, e sono eventi proprio di presentazione online. La cosa, diciamo, differenziale rispetto a una normale presentazione è il fatto che l'evento viene condiviso con parte delle librerie aderenti al circuito, quindi sono sempre almeno una ventina, una trentina di librerie che condividono l'evento, come se la presentazione fosse in simultanea in 30 posti diversi. Questa è l'altra grande innovazione, secondo me, importante, che ha dato anche la possibilità agli editori, oltre che ai librai, di poter continuare l'attività di presentazioni. Poi abbiamo una collaborazione stabile con una radio di Roma, che è Radio Elettrica, con la quale ogni 15 giorni facciamo una presentazione di due librerie intervengono, propongono una propria classifica, eccetera, eccetera, e quindi realizziamo poi dei podcast e dei video legati anche a queste iniziative. Insomma, Libri da Sport si è trasformato da un semplice servizio di spedizione a un qualcosa un po' di diverso, a un network vero e proprio, un network che vede e dà la possibilità sì alla libreria di spedire, ma anche di realizzare eventi e di collaborare e di rendere fattiva la collaborazione tra editori e librai. Quindi, per tutti coloro che fossero interessati, ricordiamo il sito di Libri da Sport, che è www.libridasport.it. Ci sono tutte le informazioni, sia per il lettore sia per i librai, è tutto molto semplice. La cosa importante che vorrei ricordare è che il progetto nasce con le librerie al centro, quindi è un progetto che prevede non la vendita diretta nostra, ma noi siamo gli agevolatori di questa vendita, quindi il lettore deve andare a cercare la libreria più vicino a lui o una qualunque libreria, si deve mettere in contatto con la libreria e attraverso il consiglio, attraverso il desiderio del lettore stesso può ricevere il libro a casa a condizioni veramente molto, molto basse, addirittura spesso gratuitamente. Perfetto, grazie Enrico per averci raccontato il tuo progetto. Perfetto, grazie mille.